pioggia, moda e vanità, schegge di malinconia al cinema. L'attrice che vestito indosserà, porno ed elettricità, dispersione di energia nelle città. Chissà, la gente che dolore indosserà. Conto dentro un bar, passa la pubblicità, l'umanità, chissà che maschera stasera indosserà. Chiederne.